La bicifestazione è un evento nazionale che si è riproposto per la seconda volta. La prima edizione è stata nel 2012, sempre a Roma, sempre ai Fori Imperiali, alla nascita del movimento Salva i Ciclisti. Nel 2012 sono venute 50.000 persone da tutta Italia per chiedere strade a misura di bicicletta, basta morti in strada, basta inquinamento nelle strade. Purtroppo dopo 6 anni non abbiamo visto dei grandissimi cambiamenti. Sicuramente sono aumentate tanto le persone che usano la bici e sempre più c'è voglia di sostenibilità, di avere una qualità della vita migliore, spazi urbani più belli. Siamo stanchi di avere parcheggi a cielo aperto invece che piazze, invece che luoghi di incontro, invece che luoghi in cui i bambini possono giocare. Queste sono un po', diciamo, le rivendicazioni della bicifestazione che sentiamo l'esigenza di riproporre proprio in un momento in cui la mobilità non è neanche nei programmi che sono stati presentati alle ultime elezioni politiche. Quindi purtroppo c'è bisogno più che mai di scendere in strada, di essere in tanti e di chiedere un nuovo modo di spostarsi in Italia. Siamo molto in ritardo. Chiedo se all'interno di questa manifestazione nazionale poi ciascuno porterà anche le proprie rivendicazioni cittadine. Allora, la bicifestazione è una dimensione nazionale. Noi abbiamo un manifesto in 10 punti che chiaramente sono poi azioni da attuare a tutti i livelli, cioè più trasporto pubblico è compito magari del governo stanziare delle risorse, ma è compito poi delle amministrazioni locali dare seguito a queste richieste. Sappiamo che la mobilità, e soprattutto quella urbana, può dipendere molto. Noi chiediamo una riforma del codice della strada da tanti anni, un codice fermo al 1995 dove la bicicletta si chiama velocipede e altre, diciamo, informazioni obsolete, però ci sono delle città che, anche se il codice della strada non è stato riformato, hanno avuto il coraggio di fare delle cose nuove, come il doppio senso ciclabile a Reggio Emilia. È stato fatto da Del Rio quando era ancora solo sindaco di Reggio Emilia, anche se nel codice della strada non è previsto. Quindi se c'è coraggio, dei cambiamenti forti possono essere fatti anche nelle città e sicuramente anche a Bologna li vorremmo. Tu citavi appunto Reggio Emilia, quali sono le città italiane più virtuose e quelle messe peggio? Ma sicuramente quelle più virtuose sono Pesaro, Rimini, Reggio Emilia, Bolzano, quelle che hanno già fatto delle cose, la Bicipolitana di Pesaro è un esempio per tutta Italia, una rete di ciclabili veramente completa, capillare, con un sistema di comunicazione efficace, perché alle volte le infrastrutture ci sono ma non sono conosciute o non sono valorizzate. Queste sono le città da cui dobbiamo prendere esempio, in cui la bicicletta è un orgoglio per il futuro, non è vista come una nostalgia, come alle volte purtroppo invece è vista. In termini di mortalità, le città messe peggio sono sicuramente quelle più grandi, Roma, Napoli, Firenze, queste sono le città che soffrono di più e purtroppo anche Bologna stiamo vedendo un po' una marcia indietro, abbiamo un aumento dei morti, abbiamo insomma politiche un po' ambigue sulla mobilità. Oggi è uscito sul manifesto un articolo che si intitola "La mala no, Bologna pedala all'indietro" e sicuramente questa non è una buona pubblicità per la nostra città. Eppure il comune ha dato ufficialmente la propria adesione, no, alla bicifestazione. L'adesione è venuta, diciamo, dal consiglio comunale, chiaramente poi ci sono tanti livelli decisionali e tanti attori. È sicuramente positiva perché comunque è stata sostenuta anche dai consiglieri di maggioranza, per cui insomma speriamo che questo poi voglia dire anche una condivisione dei temi anche a livello di giunta. Domattina ci sarà una commissione consiliare sul biciplan in cui sapremo finalmente se c'è intenzione di approvare ufficialmente il documento, ora che il PUMS è insomma quasi alla fine della sua redazione, visto che era stato posto come termine, no? Aspettiamo il PUMS, aspettiamo il PUMS, domattina sapremo se finalmente possiamo smettere di aspettare, iniziare ad avere delle date su quando verranno realizzate le infrastrutture previste dal biciplan. Ci sono delle opere molto importanti, ad esempio le ciclabili sugli assi principali, Andrea Costa, Via Murri, sono delle strade in cui abbiamo una mortalità altissima. Vi invito a venire a Roma il 28 aprile, noi abbiamo organizzato anche un pullman, quindi potete scriverci se volete aggiungervi all'ultimo momento, se non avanzate ancora dei posti, info@salvaiciclistibologna.it e andiamo a Roma.